al mattino ti vedo arrivare. Il mio giorno si illumina d'immenso e il mio cuore comincia a tremare. Avrei dovuto incontrarti tempo fa, ma la vita è molto strana. Ti fa incontrare tante persone e poi rimani deluso. Tu sei solo un'amica, anche se vorrei di più. Tu sei solo un'amica, nei miei sogni ci sei tu. Poi la giornata scorre via come acqua tra le mani e la mente si perde in desideri strani. E vedo vicino a me e ti penso accanto a lui e il mio cuore comincia a tremare e il mio cuore comincia a tremare. Tu sei solo anche se vorrei di più. Tu sei solo un'amica, nei miei sogni ci sei tu. Tu sei solo un'amica, anche se vorrei di più. Tu sei solo un'amica, nei miei sogni.